24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 19 minuti e 14 secondi, la terza parte di 24 Mattino. Di nuovo buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella, eccoci. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori che forse si saranno svegliati ancora prima questa mattina per sentire 24 Mattino già dalle 6:15. Comunque se siete svegli e belli carichi, non lo so, comunque sì, buona settimana perché... dal voto dell'Emilia Romagna soprattutto e sì, anche da quello della Calabria arriva una buona notizia per voi, eh? Forse nei prossimi mesi parleremo un po' meno di politica, perché una cosa è certa, non ci saranno elezioni anticipate. No, quello sicuramente no, però ricordiamo che ci sono le altre elezioni regionali e sì, si vota, si vota in regioni che anche queste importanti, diventano contendibili, sì, per la Lega, certo, come le Marche, la Toscana e non solo. Comunque se ne parlerà un pochino di meno, su questo non c'è dubbio. 3-4, oggi però se ne parla, 349-238-6666. Sì, anche perché bisogna dire chi ha perso e chi ha vinto, certo, il gioco certo. Si fa 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi WhatsApp audio, oltre che l'800-2400-24 per intervenire in diretta. Ma facciamo una cosa, Maria, iniziamo proprio dalle loro voci, va, sì, via. Sì, buongiorno, volevo dire la mia sulla vittoria della sinistra. Ok, andiamo avanti sempre, che chi lavora sono sempre i soliti. Avanti in questa regione gli enti, le case popolari, gli extracomunitari, le strade distrutte e tutto quanto. Insomma, in poche parole, chi lavora sgobba e gli altri stanno tutti con le mani sulla pancia. Grazie. Ma voglio dire, ma è evidente che la destra stava crescendo anche in Emilia Romagna, lo sapevamo bene. Quello che noi emiliano romagnoli abbiamo fatto, anche se vi ruga, cioè non riuscite a dirlo, è che noi abbiamo dimostrato che è possibile fermare il populismo, avete capito? È questo che non riuscite a dire. Buongiorno, io ero uno di quelli che avrebbe votato Salvini. Però dopo la cavolata che ha fatto con la citofonata ai tunisini ho cambiato idea e me ne sono stato a casa. Poi per quanto riguarda i 5 Stelle, no comment, secondo me sono destinati a scomparire. E vabbè, eccoli i nostri ascoltatori, le vostre voci, fatecele sentire. Ricorderete che quando abbiamo avuto la Borgonzoni ospite qualche giorno fa, alla domanda che le avevo fatto, ma secondo lei la citofonata a casa dei tunisini vi ha fatto perdere o guadagnare voti? E in quel caso la Borgonzoni non diede una risposta, perché era davvero difficile capire se quel gesto avrebbe rafforzato questa, diciamo, ondata della Lega in Emilia o no. A quanto ci dice il nostro ascoltatore, se è vero che non è andato a votare per quello, beh, una risposta lui ce l'ha data, poi vedremo, sì, nell'analisi. È un caso singolo, quanto... per carità, certo. Chissà quanto ha pesato, però non è il primo che dice questo. Insomma, è certamente un gesto estremo, con evidentemente che può aver allontanato il voto cosiddetto di centro. Come sempre, negli ultimi giorni delle campagne elettorali si possono commettere errori, proprio sull'onda magari di una certa confidenza, perché negli ultimi giorni, diciamolo, i sondaggi davano il centrodestra vincente in Emilia Romagna, sì, c'era parecchia preoccupazione anche dalle parti del PD. Evidentemente poi nelle ultime 48 ore invece il vento è cambiato. Oh, ci dice un ascoltatore, dice: ecco la macchina del fango contro i 5 Stelle, vai, grande Radio 24. E però, i voti ai 5 Stelle sono abbastanza evidenti, Benini ha preso un 3,5%, e però, la mette così. Diciamo che in realtà lei ha detto che non siamo soddisfatti, ma in realtà noi siamo molto soddisfatti. Siamo molto soddisfatti perché come Movimento 5 Stelle abbiamo tenuto qui in Emilia Romagna. Io vedo un dato che in realtà chi scompare dall'Emilia Romagna è Forza Italia, mi può far solo che piacere. Noi ovviamente aspettiamo sia la Borgonzoni che Bonaccini. Abbiamo tenuto in Emilia Romagna, no, beh, in Maria, Calabria, dai. In Calabria è andata un pochino meglio il Movimento 5 Stelle, dunque si rafforza l'idea di un Movimento 5 Stelle che guarda al mezzogiorno, cosa che si dice ormai da tempo, benché fosse nato proprio in Emilia Romagna. Però una cosa bisogna dirla, Simone. Però permettimi una, mi permetti solamente questo, Maria. Sì, allora sarà andato un po' meglio in Emilia Romagna, però in Calabria, dico, però il Movimento 5 Stelle alle politiche del 2018 in Calabria ha preso il 43%. Infatti, quello che si diceva, è nato il in Emilia Romagna. Sto parlando di Calabria. In Calabria 43% alle politiche del 2018, 26% alle europee del 2019 e adesso siamo intorno al 7%, 7,5%, ragazzi. E infatti chi dice che il governo Conte adesso avrà qualche turbolenza proprio per via della riflessione, che è qualcosa di più che è in corso nel Movimento 5 Stelle, può avere ragione. Secondo me, con questi dati dell'Emilia Romagna e della Calabria, il governo Conte viaggia abbastanza sereno, perché voglio vederli dentro la maggioranza di governo, quelli dai 5 Stelle a Italia Viva, che metteranno in dubbio questa corsa. È facile prevedere che invece il governo Conte dovrà misurarsi con qualcosa che tutti attendono, cioè delle azioni incisive, ma avrà meno turbolenze, questa è la mia previsione, anche perché può piacere o non piacere, e a molti non piacerà, ma la linea molto prudente che è stata scelta dal segretario del PD Zingaretti, che si è fatto vedere il giusto in Emilia Romagna, in Calabria, ma non esponendosi visibilmente, lasciando lo spazio a Bonaccini, questa linea evidentemente ha pagato. Quindi quella foto che tutti i giornali hanno oggi di Nicola Zingaretti rilassato coi piedi sul tavolo sintetizza una cosa: c'era già chi preparava la battaglia per la successione alla segreteria di Zingaretti, già correvano i nomi, c'era Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che stava affilando le armi con interviste, eccetera. Ecco, mi sembrava, come dice Mark Twain, tutto un pochino troppo precoce. Mentre invece mi sembra che a questo punto sul Partito Democratico si stagli forse una nuova figura, che è esattamente quella del neogovernatore ed ex governatore, nel senso che lascia l'incarico e lo riprende, della regione Emilia-Romagna, perché sicuramente in queste elezioni ha dominato la scena e vedremo se ci sarà una proiezione nazionale. Già ci stanno chiamando, Matteo da Parma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Devo intervenire sulle elezioni dicendo che se il popolo di sinistra si sta rallegrando per la vittoria di Bonaccini, siamo messi male. Io, essendo un elettore di sinistra, meglio detto comunista proprio, Bonaccini, uno che metteva nei cartelloni tutto pitturato di verde, non c'era uno sputo di rosso sui cartelloni della campagna elettorale, questo richiamo alla pelata di Bonaccini stile fascistoide, richiamando comunque Matteo, ma che stai dicendo? Scusa, che sono messaggi subliminali che arrivano alla pancia del persone. Scusa. Anche di quei poverini detti di sinistra, che comunque Bonaccini mascellone. Il nostro ascoltatore mi fa capire una cosa. In Emilia Romagna, a Parma, visto che lei abita là, come ha governato la giunta Bonaccini? Cioè, quante cose sono state fatte in questi anni? Quante strade sono state rimesse a posto? Come è andato il lavoro sulle piccole aziende? Io credo che su questa base, non sulla base dei richiami, come dice lei, subliminali, poi la gente abbia votato. Mi è capitato di fare dei dibattiti a Bologna con imprenditori che mi dicevano: io sono di destra, ma voterò Bonaccini perché ha ben governato. Io non vivo in Emilia Romagna, non lo so se ha ben governato, lo chiedo a lei. Io non sono un imprenditore, sono un laureato in giurisprudenza che lavora come operaio in fabbrica. Per quanto riguarda la situazione degli operai e dei lavoratori, non solo operai, impiegati o salariati in genere, non è migliorata per niente, ma non è migliorata per nessun salariato da qua a 30 anni a questa parte. Sì, però questo è un problema italiano. Questo è un problema italiano, mi sembra, Matteo, in tutta sincerità. Di strade, di infrastrutture, di quello che dipende dal governo regionale, la sanità, questo le chiedevo. Funziona ancora il problema, ma siamo sempre lì. Il problema è che, per esempio, le dico un'altra cosa: la sanità italiana funziona ancora perché è una sanità pubblica che ha comunque una forte valenza pubblica, quindi chi si ammala non finisce ad una strada se non ha i soldi. Cioè, voi a Bologna avete l'istituto Rizzoli nel quale arrivano bambini per essere operati da tutta Europa e anche dal Medio Oriente. Avete delle eccellenze sanitarie, penso al professor Gasbarrini, Alessandro Gasbarrini, che ha fatto il primo intervento trapianto di vertebre al mondo. Ecco, io penso che sulla sanità emiliana possiate sentirvi confortati, non lo so, chiedo, perché ripeto, di sanità emiliana so, perché purtroppo ho avuto occasione di sperimentarla direttamente, ma chiedo a lei come se l'è cavata la sanità emiliana. Rapido Matteo, perché poi adesso dobbiamo andare a chiudere. Non è che mi sento confortato se nella mia regione, nel mio quartierino io sto bene, io mi sento confortato se in tutta Italia, in genere, vabbè, un discorso più ampio, in tutto il mondo non ci sia una persona che sta male o che soffre. Questo è conforto. Sì, è un conforto per tutti noi, però nella fattispecie parlavamo dell'Emilia Romagna. Grazie comunque Matteo, con questa idea di Bonaccini mascellone. Chissà che cosa ne pensa lui. Ci fermiamo, va. A lui piace l'idea. Secondo te sì, dal balcone, sì. Bonaccini dal balcone. No, non dal balcone, ma insomma è uno al quale ha fatto delle foto mentre faceva le flessioni. Sì. Ha fatto una comunicazione abbastanza pop o rock, come volete. Pausa. Mattino 800 24 00 24, sempre per intervenire in diretta. Siamo con Stefano Candiani, senatore della Lega, coordinatore della Lega in Sicilia. Candiani, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Candiani. Resta sicuramente il fatto, come ha detto anche Salvini, che la Lega ha ottenuto un bellissimo piazzamento, no? In una regione storicamente rossa, è proprio a ridosso del PD. E tuttavia, nonostante una mobilitazione quotidiana del medesimo Salvini, la spallata non è riuscita. Secondo lei perché? Che non sia riuscita è dato di fatto. Sul perché, ovviamente, lo possono dire già anche i numeri. Esisteva una presenza di un 5 Stelle fino a qualche anno fa, ma guardiamo le stesse elezioni politiche piuttosto che le europee, che è totalmente evaporata, e quel voto si è oggettivamente trasferito sulla sinistra, sul PD, ma particolarmente su Bonaccini. Non è un caso, non è un fatto estraneo a questo risultato che Bonaccini abbia avuto molti più voti come persona rispetto a quello che ne ha avuto la sua aggregazione politica. Se si fa la sommatoria di tutti i voti della coalizione di centrodestra capeggiata dalla Lega e della pari coalizione di centrosinistra capeggiata dal PD, ci si trova esattamente con i risultati opposti, quindi ha vinto il centrodestra. Nella realtà dei fatti la legge elettorale emiliana-romagnola consegna la vittoria al presidente, che ha preso più voti rispetto a Borgonzoni e rispetto anche alla sua aggregazione politica. Sentivo prima un ascoltatore che diceva che Bonaccini ha fatto la campagna elettorale svestendosi da qualsiasi colore comunista o riferimento al PD. È vero, è certamente stata un'operazione molto, molto attenta e certamente questo gli ha portato beneficio, perché ha preso più voti lui rispetto al Partito Avreste Democratico. Avreste avuto più chance con un candidato, diciamo, più caratterizzato? Non è un segreto, non è un segreto che anche nella Lega ci fosse un po' di perplessità magari sulla candidata Borgonzoni, popolare ma forse meno forte rispetto a un uscente governatore. No, premesso che Lucio Borgonzoni ha fatto egregiamente la sua parte di candidato. Quello che è oggettivo è che il risultato che ha ottenuto Bonaccini l'ha ottenuto grazie al tracollo dei 5 Stelle. I 5 Stelle che rappresentavano un'alternativa rispetto a un elettorato di sinistra deluso negli anni passati, in questo caso sono evaporati per i loro stessi problemi e quell'elettorato si è riposizionato essenzialmente su Bonaccini. Candiani, le faccio sentire un ascoltatore. Va Alessandro da Modena, buongiorno. Ma non glielo faccio sentire in realtà, perché chissà in quale luogo oscuro è. Senta, sarà stato un elettore ovviamente a favore. Credo leghista. Forse l'abbiamo recuperato? Sentiamo, Alessandro, sì. Buongiorno, eccoci, prego. Buongiorno, allora io sono di Modena, perciò ho partecipato alle elezioni. Volevo dire che, per esempio, se a livello nazionale mi sento più vicino alle posizioni di Salvini, sicuramente considerando il lavoro che ha fatto Bonaccini in Emilia, e noi non siamo una tra le ultime regioni in Italia e io giro per motivi di lavoro, non potevo non esprimere la mia approvazione per Bonaccini. E quindi alla fine ha votato Bonaccini, Alessandro, pur sì, essendo leghista, Bonaccini, diciamo così, come esatto, tendenza. Io sono, a livello nazionale avrei dato il voto a Salvini, però a livello locale per il lavoro svolto da Bonaccini ho dato il voto a Bonaccini. Candiani, è un buono spunto questo, interessante, no, per voi? Beh, avrei preferito ovviamente non sentirlo, non fosse così, sì, vabbè, è oggettivo, però è accaduto, ci sta, cioè, l'abbiamo capito, l'abbiamo visto anche nei numeri. Certamente Bonaccini, la figura di Bonaccini, il governatore uscente, ha saputo aggregare e l'hanno utilizzato in questa maniera in campagna elettorale, perché Bonaccini ha fatto tutto tranne che sovrapporsi o cercare di sovrapporsi al Partito Democratico, anzi, probabilmente farsi vedere con Zingaretti o con qualcuno del Partito Democratico gli avrebbe prodotto l'effetto contrario. Zingaretti in Emilia ci è andato, sì, e ci è andato spesso, ma è stato abbastanza astuto dal non come dire, enfatizzare la sua presenza. Senta Candiani, io a me sembra che quello che ha detto il nostro ascoltatore sia molto utile in generale per la politica, ed è del resto quello che dite anche voi della Lega quando parlate del buon governo in Veneto, del buon governo in Lombardia. Dunque, potrebbe esserci, lo dico con un po' di speranza, ma non so se crederci, potrebbe esserci un'inversione di tendenza dopo decenni di politica spettacolo in cui si votava un politico perché era simpatico e non tanto per quel che era capace di fare. Potrebbe essere che adesso a voi che siete in politica si chieda di fare e quindi su quel fare di valutarvi? Questo no, è più impegnativo, perché è più semplice fare il simpatico che governare bene. No, attenzione, perché per quanto riguarda la Lega, questo è un mantra, un denominatore comune ed è una parola d'ordine che esiste da sempre ed esiste in particolar modo proprio nelle regioni dove governiamo. No, bisogna distinguere sempre dal livello amministrativo a quello politico, tant'è che non capita di rado che ci siano partiti politici che a livello nazionale non funzionano e che poi a livello locale invece ottengono risultati. Penso a quella che fu l'elezione di Gori a Bergamo, piuttosto che la stessa Lega che abbiamo vinto a Ferrara con Alan Fabbri, in una regione che in questo momento si è consegnata invece ancora al Partito Democratico. Il livello locale e amministrativo hanno certamente un peso fondamentale quando si tratta di parlare di regione, si tratta di parlare di amministrazioni locali. C'è poi una sovrapposizione politica per queste elezioni regionali in Emilia-Romagna che è evidente, perché è chiaro che si trattava poi di dare anche una cosiddetta spallata al governo, sulla quale Bonaccini, ripeto, sì, Bonaccini, no? Il Partito Democratico ha saputo fare in maniera egregia sponda. Però Candiani, da questo punto di vista, forse è stato un errore quello di Salvini dare tutta questa proiezione nazionale al voto in Emilia-Romagna, perché poi alla fine ti ritrovi in questa situazione nella quale Bonaccini vince, e vince oggettivamente di tanto, perché va detto, e tutta la campagna che hai giocato sul fatto questa regione sarà il punto di svolta anche sul fronte del governo nazionale cade improvvisamente. Cioè un errore, per essere chiari, strategico dal punto di vista politico o no? No, beh, è relativo, perché ripeto, il risultato della Lega dice che l'attività fatta da Salvini, l'attività fatta sul territorio dei nostri militanti, dei sostenitori c'è stata, è stata importante, tant'è che la Lega è essenzialmente al 30%, 31%, e adesso gli ultimi numeri non ce li ho sotto mano. Quello che è indubbio è che è cambiato lo scenario evaporando i 5 Stelle, e questo è accaduto nel corso degli ultimi mesi, delle ultime settimane, perché glielo do io, siete al 32% con un Partito Democratico che si attesta intorno al 35%, 34,5% più o meno, insomma. Sono il Partito Democratico è quello, la Lega è quello, i 5 Stelle me lo dice lei adesso, siamo a 4,5%. Sì, 5, sì, più o meno quella, sostanzialmente più o meno. Evaporato. È indubbio che quell'elettore che negli anni passati si era posizionato sul Movimento 5 Stelle perché è deluso e amareggiato dalla cattiva politica del Partito Democratico, nel tempo poi ci ha ripensato, parte sono finiti ovviamente dalla Lega per quello che è la nostra politica di sicurezza, di legalità e tutto il resto, e l'altra parte è rifluita, queste settimane l'abbiamo visto, sul Partito Democratico, ma più precisamente su Bonaccini. Senta Candiani, adesso, questa è una facile osservazione, il viaggio, la navigazione del governo Conte sembra poter procedere senza troppi incagli verso la fine, diciamo, naturale della legislatura, o comunque fino all'elezione del capo dello Stato. Queste sono le previsioni che si fanno oggi, pronti a ricrederci se qualcosa accadesse. Le chiedo, uno, sarà così? Sarà così? Il governo Conte andrà avanti? Secondo, la Lega resta all'opposizione e dovrà attrezzarsi insieme agli alleati ad una opposizione che potrebbe durare anche anni. Avete fatto una riflessione in questo senso? È vero che ci sono nuove e regionali a maggio, però insomma le elezioni nazionali sembrano allontanarsi. Come pensa che andrà con i vostri alleati, con Giorgia Meloni, con Forza Italia, che comunque ha avuto un buon successo perché ha piazzato Jolle Santelli in Calabria? Quindi due domande. Una, la navigazione del governo procede tranquilla secondo lei? Due, come vi attrezzerete a quella che i giornalisti chiamano sempre traversate nel deserto, che è la normale opposizione fino alla fine della legislatura? Guardi, parto dalla parte finale della sua domanda. Quando si fanno delle elezioni ci si prepara sia a vincere che a perdere. Noi non siamo assolutamente spaventati, ma soprattutto siamo determinati nel fare opposizione, soprattutto quando l'azione di governo come quella che sta dimostrando il Conte 2 fa danni al paese. E lo faremo anche in Emilia Romagna. Attenzione, lo dico in maniera, e ringrazio ancora una volta gli elettori che ci hanno dato fiducia perché cercavano una svolta. Noi li rappresenteremo in tutti i modi democratici prevedibili e possibili, perché è chiaro che quell'elettore che ci ha dato il voto deve essere rappresentato in opposizione, lo stesso a livello nazionale. Attenzione che il governo poi abbia navigazione serena, francamente dovete chiederlo a Renzi, dovete chiederlo ai 5 Stelle, perché è indubbio che in questo momento i 5 Stelle, che hanno una rappresentanza parlamentare del 30% nel paese, sono sostanzialmente evaporati, e la stessa maggioranza che fa parte del governo con col Partito Democratico al suo interno una presenza di quella di Renzi, che nel caso specifico in Emilia Romagna non si è presentato, quindi le incognite per esempio Italia Viva aveva presentato una candidatura a quella della giornalista Angeli per il seggio suppletivo a Roma, e poi in realtà ha appoggiato Gualtieri, quindi spesso diciamo che da un lato abbaia ma poi non morde. Che dice Candiani? Le sto confermando quello, che i problemi che può avere la maggioranza vanno guardati all'interno della maggioranza stessa, proprio per quella dinamicità che le ho dimostrato adesso. Lei dice Candiani, non è che c'entriamo molto noi su questa cosa. Attenzione, è chiaro che vincendo le elezioni regionali in Emilia Romagna sarebbe stato ovviamente un avviso di sfratto istantaneo. È indubbio che, nonostante il risultato delle elezioni in Emilia Romagna, per i problemi di maggioranza ci stiano, perché 5 Stelle oggi hanno una rappresentanza parlamentare che all'interno del paese è sostanzialmente evaporata. Peraltro sono certo che, anche venendo come si era sviluppato poi il dibattito nei giorni scorsi, se oggi avessimo vinto le elezioni regionali in Emilia Romagna ci sarebbe stata una dichiarazione di Conte o di qualcuno di maggioranza che avrebbe cercato di sminuire tutto, dicendo il governo va avanti, che è il mantra che abbiamo sentito in questi giorni. Candiani, la dobbiamo salutare perché abbiamo un altro ospite subito dopo, Stefano Candiani, senatore della Lega. Grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo una breve pausa e poi riprendiamo dal lato Partito Democratico. Maurizio Martina del Partito Democratico, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a voi. Maria, prego. Allora, i commenti sulla vittoria li avete già fatti, già in serata, e quindi penso che poco si possa aggiungere. Io vorrei fare un passo in avanti, visto che Bonaccini ha vinto con una campagna molto locale, molto incentrata su se stessa, su se stesso, adesso tocca al Partito Democratico mandare avanti quel progetto di cui ha parlato Nicola Zingaretti. Se Bonaccini avesse perso, si sarebbe aperta un po' la caccia al segretario. Bonaccini ha vinto, il PD è andato bene, quindi il segretario è rafforzato. Che cosa succede adesso nel PD? Ma intanto mi faccia dire che non c'è stata partita, visti i risultati reali, altro che, come dice Salvini, li abbiamo tenuti lì. Questo dato non l'avevamo ieri sera, oggi ce l'abbiamo ed è motivo di grande soddisfazione, perché è figlio di un lavoro enorme che è stato fatto sul territorio. Ha detto bene lei, secondo me questi dati confermano che il lavoro che il Partito Democratico ha iniziato paga. Guai a noi se dormissimo sugli allori e quindi se pensassimo che questo risultato importantissimo dell'Emilia Romagna, per come è stato caricato politicamente innanzitutto da Salvini in chiave nazionale, guai a noi se ci fermassimo lì. Io penso che adesso il PD deve rilanciare il suo progetto, deve rilanciare la sua capacità di riorganizzarsi nei territori e stare lì tutti i giorni e non solo in una campagna elettorale. Ha detto bene Bonaccini ieri sera: abbiamo riscoperto le piazze, abbiamo riscoperto il rapporto diretto con tanti cittadini, in particolare quelli che magari ci hanno detto più le cose che non vanno che non quelle che vanno, e adesso il nostro compito è quello di rafforzare questo stile anche nella sfida di governo. Quindi io mi aspetto che l'agenda delle cose da fare anche a livello nazionale adesso sia molto più netta e che ci sia la possibilità di lavorare seriamente su alcune questioni, a partire dalla questione sociale. Sentiamo Arnaldo da Bologna, rapidamente Arnaldo, se può, grazie. Sì, certo, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io sono un elettore 5 Stelle, volevo dire che questa volta, proprio per la chiave nazionale di cui erano stati rivisti queste elezioni, ho sostenuto Bonaccini, non direttamente attraverso il PD, però è stata soltanto una scelta perché i 5 Stelle non avrebbero avuto alcuna possibilità di vincere e quindi ho preferito non sprecare il voto, tra virgolette. Martina, quanto ha contato questo secondo lei? Penso che sia stata una chiave assolutamente comprensibile, quella di tanti elettori come Arnaldo, che hanno riconosciuto che nella sfida dell'Emilia Romagna c'era anche una questione nazionale, proprio per come Salvini aveva cercato di giocare malamente questa carta, e hanno preferito dare una mano alla proposta che competeva su quel terreno lì e che aveva le caratteristiche per vincere. Francamente ne abbiamo sentiti tanti di elettori in queste settimane che ci dicevano non si può buttare un voto così importante, comprensibilissimo. Mi faccia dire che anche questo carica di significato politico il lavoro che dobbiamo fare. Quando qualcuno di noi ha provato a dire che bisogna nella sfida di governo costruire anche una prospettiva politica, anche nel rapporto con gli alleati, ha detto una cosa secondo me assolutamente vera. In Calabria questo non è successo. Forse Callipo avrebbe avuto qualche chance in più se il Movimento 5 Stelle fosse confluito su quello che era poi il suo candidato originario, senza perché dubbio. Luigi Di Maio aveva pensato a Callipo. Allora, la domanda che le faccio è questa: ci sono, purtroppo dico io, perché in questo paese continuiamo ad avere elezioni regionali mese dopo mese, sarebbe meglio forse fare una bella cosa accorpata, comunque ci sono elezioni regionali in Puglia, in Campania, in Toscana. Con questo risultato in Calabria, no? Dove il Movimento 5 Stelle sostanzialmente poi ha aiutato la vittoria della candidata Santelli, che è stata molto brava e ha fatto bene, secondo lei cambia qualcosa? Cioè, ma io me lo auguro, Luigi guardi. Di Maio, che non è più il capo politico, poteva essere un ostacolo e adesso colloquierete con altri? Mi faccia capire cosa pensate con l'alleato 5 Stelle. Sicuramente ha ragione lei a dire che in Calabria si poteva fare un lavoro molto più aperto, unitario, attorno alla figura di Callipo. Il risultato poteva essere molto diverso e noi paghiamo certamente anche le divisioni di un centro-sinistra che lì poteva fare uno sforzo unitario che non ha fatto. Io mi auguro che anche nei 5 Stelle adesso si possa ragionare della questione, diciamo, dell'alleanza nei territori attorno all'esperienza di questa maggioranza di governo in maniera più distesa, in maniera più tranquilla, in maniera anche più consapevole, laddove ci sono candidati che possono seriamente aggregare dal basso le nostre forze, non c'è motivo per non farlo, se si condividono i profili dei candidati e i programmi di governo. Spero che si apra questa riflessione anche nel movimento, a partire pensando alle prossime regionali, perché penso che si interessa anche loro provare a misurarsi con un lavoro di questo tipo. Noi abbiamo fatto, diciamoci la verità, in fretta e furia l'esperienza umbra, ed era probabilmente il terreno più difficile, il contesto più difficile per mille ragioni, e poi ci siamo congelati in questo lavoro comune sul territorio. In realtà adesso bisogna scongelarci. Lei dice scongelare. Prima, abbiamo ancora un attimo prima di chiudere, quasi ci stavamo dimenticando delle sardine, delle quali forse ci vuol parlare Nazarena dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Nazarena, buongiorno. Eccoci, prego. Infatti mi pare che non avete tenuto conto dell'importanza, si è svolto tutto intorno alle sardine. Avete presente come era messo il PD prima che le sardine si muovessero? Allora, Nazarena, ha ragione. Comunque in Calabria, glielo dico perché ho il dato che è arrivato adesso, in Calabria il PD è il primo partito e lì le sardine non si sono molto viste. Che ne dice però, Martina? Però Martina, che tra l'altro avrà sentito un accento familiare, no? Insomma, sì, quello di Nazarena, prego. Ma bisogna riconoscere al Movimento delle Sardine di essere stato fondamentale nel cambio di clima prima di Natale. In Emilia-Romagna, che è stato anche un cambio di clima, secondo me ha dato una mano in chiave nazionale, e quindi io sono da sempre, dall'inizio, l'ho detto più volte, per cogliere questa enorme domanda di buona politica che è venuta avanti anche in quelle piazze, e lo dicevo prima, guai a noi se dormissimo sugli allori e non ragionassimo ora di come il PD deve fare di più e meglio, deve cambiare. Devo anche dire che questo è un voto che ha dato forza al Partito Democratico ovunque. Avete detto bene voi del dato in Calabria, ma guardate il dato in Emilia-Romagna, il Partito Democratico torna ad essere il primo partito, supera abbondantemente il 30%, lascia la Lega al secondo partito e ovunque in Emilia-Romagna rimane per fortuna il soggetto centrale radicato, fatto di persone in carne e ossa, di candidati che prendono preferenze, di una comunità che si è mossa e ha lavorato bene. Non lo dico per incensare il PD, lo dico perché adesso parte la sfida più importante per noi, che è quella di essere. Allora, Maria, veramente dobbiamo chiudere, quindi lasciamo Maurizio Martina a questa sfida, posto che di questi temi continueremo a parlare ovviamente nei prossimi giorni. Grazie Maurizio Martina del Partito Democratico. Maria, ci risentiamo domani 8:20, eh? Ebbene sì, Simone, ciao a tutti. Andrea Roccabella, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marcotulli, Gloria Guerrera in assistenza e in redazione, Francesco Ciaraffo, Margherita Inea, i nostri autori. Domani si torna regolarmente in onda alle 6:30. Una buona giornata da Simone Spezia. Ciao.